L'hai letto benissimo, mi sono commosso. Grazie, dopo poi ti do l'MP3 in cambio di 5 euro. Siamo qui con Enrico Farnedi e Riccardo Lolli. Ciao. Salve, ciao. Riccardo Lolli non c'entra niente con Lost Beginners. No, no. Quasi niente. Quasi niente. Nel senso che... No, dove c'è Farnedi in genere vengo anch'io, ecco, però sì, una percentuale di DNA è tracima ovunque praticamente. Lolli ormai no, è... e vi capisco, perché effettivamente quando non ci sono anch'io poi mi dispiace questa cosa. Per cui è bene rivedere. In realtà dovevamo essere tipo in otto stasera, invece siamo noi tre, come esatto. Come tre vecchi che si fotografano su Instagram. Cosa peraltro successa 5 minuti fa. Esatto. E siamo qui invece a parlare di un disco nuovo che ho appena aperto, cioè ho ancora la carta in mano. L'odore di nuovo. E anche il rumore che fa ce lo fa. Esatto. E si intitola appunto El Party Begins, che significa E la festa comincia. Comincia, certo. Ma dunque, io non so, no, perdonami la mia ignoranza, malgrado me l'avessi detto. No, ma tu sei interessato a altre cose, ci sta che tu non sappia nulla di questo. Esatto, 333-180-94-94 se per caso volete parlare con i beginners, con uno dei tre beginners. Esatto. Perché gli altri due in realtà li conosco un po' di fama, un po' di... Sì, sono famigerati, e ma poi, non sono qua. Perché nelle foto siete solo in tre, in realtà ce n'è un quarto, cioè vedo che c'è scritto questi sono special guest. Sono degli special guest, ecco, nel disco, ma prima di arrivare agli special guest abbiamo Fabrice Casadei, Enrico Farnedi, bass, trumpet, organ, ukulele, background vocal and percussion, e Marco Bovi, guitars, background vocal and more guitars. Infatti l'abbiamo avuto qua a suonare un sacco di guitars anche Bovi. Marco Bovi è chitarrista compulsivo. Da non confondersi con Marco Bovi Campeggi, che è una via, no, non è Marco, è una via lì vicino. Emmanuel Sigal invece chi sarebbe? Emmanuel Sigal è una gnocca. Artista, musicista, cantante, cantautrice, compositrice. Franco-israeliana o israelo-francese, non so. Non ho capito bene la questione delle sue cittadinanze. È una grande, grande artista con cui collaboriamo. Io invece non ho capito bene questa cosa di side A e side B. Perché Bovi al feticcio del lato A e del lato B ha voluto fare una scaletta immaginandosi che fosse un vinile che qualcuno poteva girare sulla giradischi. Attenzione, che qui è entrato. È entrato un... Salve, io sono Enrico. È entrato un signore un po' così, un po' inaspettato. Ma sì, inaspettato. Buonasera, conosco adesso Farnedi, ho sentito le sue canzoni, una voce intonata finalmente, uno con qualche idea. Ma niente, ero qui che giravo per Bologna e ho sentito la radio, questa sigla veramente bella. Vero? La sigla non è male. Poi ho sentito il dottor Lolli, allora sono passato, poi c'era la pizza pagata dal direttore della radio, quindi sono arrivato. Io credo, l'unica critica che faccio a Farnedi, se posso permettermi, troppi bemolle, con calma, perché... Abbiamo qui Roberto Onofri. Grazie. Che sei, anzi, sono musicista. Sei un musicista, cantante, attore, prete, vescovo, vicario, di tutto. Insomma, se vuoi quel microfono lì. No, cercavo dell'acqua. Ma questo è Manuel, no? Che mi ispira molto. In quale canzone la possiamo sentire? Nella seconda canzone, di cui tra l'altro è appena stato pubblicato un videoclip. Un videoclip sexy, divertente. Certamente. Allora, direi di ascoltare la canzone che si chiama Peep Show. Io direi di andarla a sentire, sempre che il CD player me lo consenta, perché sai com'è. Qui il CD ormai è obsoleto e il CD player lo sa. Esatto, se ne rende conto. Adesso, abbassiamo un attimo questi fantastici Ramones, che invece pompano anche se non cantano. c'era scritto 2, è diventato 1-0 di nuovo. Ritentiamo, vai, no? Vediamo cosa dice CD2. Oh, è partito. Dubidù. Sei qua là? Bidubi. Fedra. Ma non riesci a chiamarmi dalla radio? Perché questa non è una radio? No, è il tuo telefono. Come il mio telefono? Siamo su Cox Spaziale. Che numero siamo? La 200-360esima, giusto? Te l'ho scritto nel messaggio. Che messaggio? Quello che ho spedito al WhatsApp da fan anonima. Ah, cavoli, non... Sai com'è? È arrivato anche Roberto Onofri. Cioè, Roberto Onofri lo devi conoscere, sai? Ho sentito. Ah, ma tu stai ascoltando la radio intanto? Sì. E come va? Va che sto sentendo il passato dal computer. Ah, cavoli, la 260esima puntata. Che bello che si sente tutto sto ritorno. Così. No, secco così. No, è che stava finendo la canzone ed è partita la canzone dopo, per cui non sapevo cosa fare e ti ho chiamato. Come stai, Fedra? Perché non ci sei qua? E perché non... Perché? Vabbè, tanto c'erano tre vecchi, hai detto, ma chi se ne frega di fare Cox o Spaziale? No, tra l'altro, scusate, io ero stanchina, ero venuto per conoscere. Parlarti ascoltando il passato nello streaming. È faticosa, sta facendo. Sì, un riverberone di 30 secondi fa, è meraviglioso. Ma ecco, adesso mi stai chiedendo come sta dalla radio, dal computer. Ah, ecco. Andate un fanculo. Senti. Andate un fanculo. Stai sentendo? Sto sentendo benissimo. Però devo farti sentire i Beginners dal vivo solo da solo con Farnelli, basta. Allora aspetta che mi sposto. sposto, però non possiamo andare avanti così, cioè è inascoltabile sta trasmissione. In effetti. Succede, beginner, stanno bene, li hai messi comodi? Stanno benissimo, adesso gli faccio una foto, poi te la faccio vedere. Aspetta, bene, che bene, spia... ma hai i messaggini sul telefono? No, sai qual è il problema? È che non ho più batteria del telefono. Ma no, non quelli del tuo telefono, io te l'ho spedito alla radio, sto facendo un'ascoltatrice anonima, sto facendo la fan in camuffo, devi leggere, no? Che ti do una mano. Va bene. Dai, Super Lolli, Super Farnedi e anche quell'altro che aveva una voce molto... Salve, molto, sono quell'altro, salve. Purtroppo no, oggi lei non c'è. Continuate così e trattatevi bene il Pasqua, mi raccomando. Molto bene, noi ci vediamo venerdì prossimo allora. Dico proprio di sì, credo. Credo anch'io. Un bacio, Fedra, grazie per aver incasinato completamente la trasmissione, ma è colpa mia. È un piacere di tradizione, sì, molto volentieri. Ciao. Ciao. No, non so come spegnerlo. Continuate così, raccomando. Continua ad andare. Ah, ecco, no, ce l'abbiamo fatto. Ho il 10% di batteria, abbiamo... Devi fare altre chiamate? No, basta. Allora, respiro un attimo. Sono molto colpito da questa trasmissione, dall'inizio, e da tutti questi disagi, da tutte queste cose mi riportano a un'infanzia, a un modo proprio di percepire le cose bellissime. Oh no, dovremmo proprio ritornare all'umanità, proprio all'errore, no? Come dicevano i filosofi. Je voudrais. Voglio l'errore, voglio il problema, no? Invece je voudrais coucher avec Robert. Radio dal basso. Ma va più basso di così. Robert, è una cosa meravigliosa. C'è talmente basso che siamo altissimi. Je t'aime, Robert. Io temo che fuori si è sentito soltanto Pasquini che sta dicendo je t'aime. Robert, e merci che vous venu. Se vogliono degli ascolti bassi possono anche escludersi. Vous venu mon maison de Dola Pietosa. No, dicevo grazie perché così, è stato bello vederti stamattina, è stato inaspettato. Bellissimo. Banca d'Italia, stupendo. No, però, perché Bologna effettivamente ha dato dei Natali interessanti, tipo Roberto Onofri e Lucio Dalla, certo. che invece Farnedi mi dicono dalla regia che no, che cosa ci suonate stasera? Allora, io ho portato la tastiera per Riccardo che ieri, siccome ieri sera era così impegnato a fare uova, soda e noci qua su Radio Città Fujiko 103.1 FM, e allora sì, non ha potuto prendere la sua tastiera seria, allora gli ho portato questa qua da bambini, che i miei bambini sono così grandi che non l'ascoltano più, gente. Scusate, mi stavo distraendo. E dunque, cosa ci suonate stasera? Visto che siete così. Ci siamo incontrati fuori dallo studio. Ci siamo incontrati fuori dallo studio della radio. Prima della Rai. Perché tu eri in ritardo, come sempre. Esatto. Abbiamo bevuto delle birre, abbiamo parlato di tutto fuorché di quello che avremmo potuto fare. Volete fare un pezzo di Dalla? Sì, beh, non lo so, potremmo fare qualcosa di Dalla, anche perché io domani devo fare un concerto dedicato a Lucio Dalla. Però non a Bologna, a Santagata Feltria, che penso Dalla non ci sia mai stato. No, conosco. Però proprio su Dalla non ci sia mai passato. Ma non è detto. È un bellissimo teatro, la rassegna. Ci sono scoperte archeologiche. Esatto, scopriremo. No, domani mi hanno invitato a fare questo spettacolo. Io lo racconto qua a Robert, che magari non lo sai, ho fatto un disco dedicato alla musica di Lucio Dalla e da un paio d'anni ormai che suono ogni tanto le canzoni di Lucio Dalla in modo... In modo ostile ostinato. Cosa ci proponete questa sera? E domani invece farò le canzoni che Dalla ha scritto con Roversi, con Roberto Roversi, che è un altro bolognese illustre. E adesso facciamo un pezzo, ti va? No, questo no, facciamo un pezzo che si chiama La canzone di Orlando, vienimi dietro, è in La maggiore. Aspetta che prima devo gli accordi devo, sono l'aire devo, aspetta un attimo che prima anche un devo fare questa cosa qua. Questa è Haru Suzuki che mi ha fatto il jingle per Corso Spaziale. Siamo pronti, abbasso la musica di sottofondo. Mi raccomando che ci siano pochi bemolle perché come vedi ne manca uno. Oddio, quello potrebbe essere un problema per... Ah no, questo è un problema di Zelda. Esatto. Ma no, vabbè, un bemolle. Ma quello non dovresti mai toccarlo. Cosa vuoi che sia un bemolle meno? Appunto. Bemolle. Siamo, ci siamo, no, perché io voi dovete sapere che io vorrei fare un disco di tutta la musica live che è stata suonata a Coxo Spaziale, per cui se puoi tu, Robert, ogni tanto butta un Je t'aime lì in mezzo, che ci sta bene. Sì, ci sta. Ci sta, sì, tu, questo però non metterlo nel disco di Coxo Spaziale perché ho cambiato le corde prima e non sono molto intonate. Molto bene, ma no, perfetto. Direi che non ci manca nulla, possiamo cominciare. Cos'è? È il microfono della regia, se lo abbasso fa questa cosa qua, non mi chiedete perché. Non me la ricordavo così questa radio. Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei amori avrei ancora 20 anni. Anser, anser, che va. Nevica sulla mia mano, il mio cavallo è ormai lontano, notte, nebbia negli occhi, il ferro sui miei ginocchi, arco e freccia non scocchi. Anser, anser, che va. Acqua di luce alla foce. Era tutto spento? No. Una corsa veloce, bagnami con un sorriso solo. Se i monti sono foreste, le strade nelle tempeste, io mi fermerò in volo e saprò raccontare la mia vita passata e ti saprò aspettare. Anser, anser, che va. Cioè, una canzone più corta non ce l'avevi. Poi fra l'altro una delle canzoni più strane in assoluto. Lucio Dalla ha fatto 3 dischi che praticamente nessuno ricorda se non per Nuvolari, di canzoni insieme a Roberto Roversi. Roberto Roversi è stato un grande poeta, scrittore bolognese, maniaco del controllo. Lucio Dalla era alla ricerca di una nuova fase della propria carriera perché si sentiva un po' stretto nel personaggio che doveva... avrebbe dovuto replicare eternamente Piazza Grande e 4 marzo e gli fecero incontrare questo Roversi di 20 anni più anziano che gli scrisse dei testi super e nel giro di 3 anni, 2 anni e mezzo produssero 3 dischi fantastici dai quali poi scaturò il Lucio Dalla autore completo, il Lucio Dalla che scrive anche i propri testi. Prima dell'incontro con Roversi Lucio Dalla non aveva mai scritto un testo e se si ascolta Come profondo il mare i primi dischi di Lucio Dalla autore completo si sente chiaramente che Roberto Roversi e in parte anche la collaborazione con De Gregori l'hanno stimolato invece a produrre musica in un modo diverso. Ma voi vi siete mai baciati? Io Lucio Dalla non l'ho mai incontrato. Ho solo suonato la tromba in una canzone dove c'è lui che canta, è un duetto di Paolo Simoni che è un cantautore diciamo giovane. E lui non ha detto ma questo trombettista qua. Può darsi che l'abbia detto ma a me non è stato riportato. Non è stato riportato, ho capito. Non mi sarei mostrato. E tu molto, invece chi è? Lolli? No, dicevo te Roberto, l'hai conosciuto Lucio? Ma purtroppo poco. Ho visto Roxy Bar e nulla, so tante cose di lui e la sua bolognesità e poi le sue canzoni particolari che diciamo abbiamo sempre ascoltato nel corso del tempo. Come serio stasera o no, Frio? Ma sono serio perché sei stanco, hai un po' fame, adesso andiamo a mangiare, fammi finire la trasmissione. Dalla, io insomma è giusto che ne parli il dottore qua che è fa uno spettacolo, è molto bravo tra l'altro perché poi non è che fa la rima a Lucio, io l'ho sentito un po', è molto intonato, molto bravo e fa comunque una sua versione pur rimanendo fedele, pur lasciandoci l'idea di quello che ha scritto Dalla, però comunque fa una sua interpretazione assolutamente soggettiva. Lucio, cosa vuoi che ti dica? Era una persona semplice, era... Intanto io l'ho conosciuto più che altro dai racconti che mi faceva Angelo Messini, mio grande amico, fratello di Bob Messini. che lui ha scritto dei testi per Dalla. E comunque questo pezzo, cioè, l'ho conosciuto, sto insomma. Disco come sottofondo di Coxo Spaziale, spaziale proprio. Questo è Los Beginner's Touch. Senti qua come si slega. Anche se devo dire che la voce di Emanuele mi manca un po'. Scusa, ti ho interrotto, ma stavi dicendo delle cose. No, nulla. Poi no. Lucio, comunque, il signor Dalla, seppur andato via molto precocemente. Un po' precocemente. Era più giovane di te. È inaspettatamente, però, diciamo, è un artista che è molto riconosciuto. Cioè, a differenza di altri che magari. A differenza di Gianni Morandi, è molto riconosciuto. Insomma, il suo lavoro credo che i bolognesi lo adorino. Praticamente, se visto, insomma, anche Pasquini mi sa che è andato al funerale di Lucio Dalla. Sì, è una cosa che nessuno avrebbe detto il giorno prima. No, devo dire che sì, no, avrebbe fatto molte altre cose interessanti. Questo è sicuro, perché era un momento della sua vita. C'è Lolli che gli sta scappando la lacrimuccia, non saprei più cosa fare. Speriamo di non perdere Lolli a questo punto. C'è rimasto solo Lolli. Tocchiamoci, no, anche perché un Lolli già l'abbiamo perso l'anno scorso. Per cui, insomma, non c'è due senza tre, il 4 diventa 6. Insomma, vediamo un po'. No, magari sopravvivo, ecco, però smetto di suonare perché mi sono rotto veramente. Ma no, questo comunque è una cosa mia. Non vi preoccupate. Sogno, questo tuo sogno di come dai? Scusa, ti ho portato la tastiera più interessante della storia del mondo. Mamma. Ah, ma cavoli, ma è venuto vai continua, no, finito, solo quello. Era bellissimo, anzi secondo me Fedra si stava già esaltando. Oh, finalmente è già disco. Ecco a voi Roberto Onofri e Los Mano Libras. Yeah! Los Mano Libras. L'ho scritto a Cuba nel 1985, mi ricordo, una sera eravamo fermati a bere con dei signori, delle signore che erano stanche perché avevano fatto i sigari tutto il giorno. E io mi misi lì con la mia pianola e facevamo sto pezzo. Me l'ho dimenticato, grazie. Io sono uno storico di questa. Grazie, l'ho dimenticato. Artistica cubana. Torniamo ai Beginners un attimo, anzi, rimettiamoli sotto di sottofondo. Raccontaci un altro. Allora, questo disco è uscito quando? Ieri, no? È uscito marzo. Il 15 marzo che. Il 15 marzo è uscito ufficialmente in formato digitale, fisico e empirico. Empirico. E alchemico. Ed è. Sta girando. Questo è il tuo diciottesimo disco, giusto? Cioè, che senso? Cioè, nel senso che. Il tuo no, quanti no, io questo diciamo che non è il mio disco, è il disco dei Beginners, dei che siamo Beginners. Io, Fabrice Casadei e Marco Bovi. Io tutti e tre insieme abbiamo concepito le canzoni, le abbiamo arrangiate, le abbiamo scritte, le abbiamo registrate, prodotte e abbiamo trovato. Ma tutti e tre voi siete anche in un'altra band o me lo sono sognato io? Siamo anche in un'altra band, ecco, che si chiama The Goodfellas, e comunque siamo insieme da tantissimi anni. Questo diciamo è una cosa a parte, un po' come i Duran, quando Duran si sono un po' annoiati, esatto, e i Power Station e gli Arcadia, no? E gli Arcadia, esatto. Incredibile. Non so perché mi ricordo una roba così. Erano i nostri anni. In un grande classico di Dalla, un po' più commerciale. Possiamo sentire un grande classico di. Ah, no, lo so, stavamo parlando. Eravamo tornati un attimo ai Beginners, però possiamo sentire Godzilla Stomp se vuoi. Questo è prima un classico dei Beginners. Che, esatto, Godzilla Stomp facciamo finta che sia come un grande classico di Dalla, però dei Los Beginners. Aspetta, che così in velocità faccio. Senti qua. Potete anche parlarci sopra perché tanto. No, un attimo il silenzio perché adesso sta arrivando il momento clou della canzone. 1, 2, 3. Godzilla! Così qualcuno non sapesse il titolo, in questo caso non so. Tra l'altro io in questo periodo sto insegnando in una scuola di musica e sto seguendo i corsi di musica d'insieme e ai ragazzini della musica d'insieme sto facendo suonare questa canzone qua. E si divertono? Piecamente, sì. Forse lo. Te fanno buon viso a cattivo gioco, mi dicono che si divertono, però. Ma tu qui che cosa stai suonando? L'organo e il basso. Wow, come fai a suonare l'organo e il basso insieme? Ho delle mani nascoste, che non faccio vedere per decenza. No, c'è una tecnologia che ci permette di registrare. Ma invece la tromba qua chi la sta suonando? Anche la tromba suona. Ecco, infatti mi sembrava. Sono l'organo, la tromba e il basso, sì sì. Sarebbe bello farlo dal vivo, sto pezzo qua, con te che suoni l'organo, la tromba e il basso. Dal vivo no, dal vivo con questo brano qui. Ecco, perché dal vivo abbiamo un quarto elemento che non viene, cioè che diciamo che non viene citato. Perché... Non viene citato perché è troppo, ci ruberebbe troppo la scena, che è la gatta Francesca, che è un organista, ballerina. Ah, e felina, ne ho sentito parlare. Che partecipa come gatto nel disco, fa il gatto in un brano. Ah, ok. E dal vivo ci darà una mano, ci ha dato già una mano nel un concerto di anteprima suonando l'organo. Ma posso farti una domanda indiscreta? Certo. Ma è più sexy Emmanuel Sigal o la gatta Francesca? La gatta Francesca. Ah. No, sono gusti. Nel video, se tu vedessi il video di Peep Show domani su www.coxospaziale.blogspot.com vedrete il video di Peep Show. Sì, sì, di cui siamo molto fieri. Sì. Sì, perché è stato un video che per questioni anche geografiche è stato realizzato in due luoghi diversi, nel senso, Emmanuel a casa sua in Israele ha fatto sue riprese e noi le abbiamo inserite nel nostro video, anzi Simone, che il regista ha concepito. È un video molto semplice, però ben fatto. Siamo molto felici. È tipo. Ma io da anni speravo di fare un videoclip in cui ballo, e qui riesco anche a ballare. Ho capito. Perché io suono, ma la cosa che vorrei veramente fare nella vita è una cosa per cui non perdono i miei genitori. Cioè, io vorrei fare il ballerino, i miei genitori non mi hanno mai iscritto a un corso di danza. Un corso di danza. Ho capito. E tu, Riccardo, anche tu volevi fare il ballerino? Io sì, ma io lo faccio a casa da solo. Io invece di esercitarmi sulle sudate carte, sulle sudate tastiere, io ballo, metto sui dischi e ballo da solo nella mia cameretta finché non mi viene la cervicale. Escono le ernie, la cervicale, ho un problema alla cuffia dei rotatori della spalla, ecco. Però insomma, io ballo da solo come la figlia di Steven Tyler. La figlia di Steven Tyler mi manca. Liv Tyler. Ah, ok. Ballo da solo al film di Bertolucci. Di Alberto Lupo, va bene, no? Perché se no è che paura di un palcoscenico c'era ieri e l'ho anche ascoltato. E ve lo consiglio. Dalle 8 alle 9 su Radio Città Fujiko 103.1 c'è un gran programma di cinema che si chiama Paura in palcoscenico ed è condotto da uno Stefano che è un po' più bravo di me, infatti si chiama Stefano Migliore. Molto bene. E la 200, non mi ricordo già più che puntata. 260 col porto, ma secondo 360, me ah, no, 260 la 260esima puntata di Corso Spaziale prosegue con una cosa che cercherei di fare un po' velocemente, ma non ci riesco, che si chiama l'angolo della menzione. Questo stacco l'avete fatto voi, ma Fedra gli ha appoggiato sopra una voce di questo qua che non si è capito chi sia. Comunque, domani, sabato 30, in occasione del finissage della mostra Stressed, Blessed and Coffee Obsessed, Galleria Più, con 3L, perché non bastano mai, presenta fuori orario numero 1 240. Alle 18.30 c'è Publication Launch con Vincenzo Estremo, che Fedra conoscerà, e Deborah Delmar, mentre invece alle 21 Primorgie, Matteo Castro e Cane di Coda con una live performance, Test Site with Audience, Food and Drink by Cucineria, e questo è in Galleria del Più in via del Porto 48 AB 48 AB che sarebbe appunto è tipo il 48 però un po' più AB. E invece la seconda menzione, ne abbiamo solo due per cui non vi dovete annoiare più di tanto, è domenica, perché domenica, come forse saprete, come tutte le domeniche al Mambo, nella Project Room del Mambo, all'interno della mostra No Oreste No, abbiamo la performance Millis, un'orchestra di strumenti automatici i cui parametri sono fortemente interconnessi e tendono a creare un singolo ecosistema a forte biodiversità. L'orchestra di questa performance è controllata sia da algoritmi non deterministici che monitorano e modificano le matrici di feedback, sia da forme elettromagnetiche di modulazione di timing in modo fortemente interdipendente. A seguire una tavola rotonda, che io vi posso assicurare non è rotonda, sono dei tavoli normali tutti appoggiati insieme, che si intitola "Che cosa intendiamo quando parliamo del rapporto arte e scienza", con José Angelino, artista, Giuliana Benassi, curatrice, Alessandro Chiarucci, Università di Bologna trattino professore dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali, e Simone Pappalardo, artista. E questo è al Mambo in via Domizoni 14, domenica alle ore 15. E c'è anche da dire una cosa, che l'ingresso è gratuito, e questo piacerà a chi non ha ancora visto la mostra No Oreste No e non vuole pagare per vederla. Sono finite le menzioni, per cui possiamo continuare a c'è un bel po' di roba in giro comunque. Ci sono solo i bar all'aperto che fanno. No, noi tra l'altro facciamo una scelta rigorosissima. Cioè, tipo che sappiamo benissimo che questo weekend ci sono un sacco di robe anche alla Gallery 16 di via Nazario Sanrio 16. Te lo volevo proprio dire. Ma noi li ignoriamo, perché la settimana scorsa c'era la Lidia Centineo, che è stato un concerto fantastico, e la nostra, noi facciamo il nostro filtro, e il filtro coxico è potente. Cosa c'è invece alla Gallery 16 Background in via Nazario Sanrio 16 che mi dici? Volevo ricordare intanto che un mese che l'ho inaugurato io il live della Gallery 16, l'ho inaugurato io. Bravo. E eravate in tanti, per questo vi ringrazio ancora. A me mi hanno pagato, se no non venivo. Alla Gallery 16 ci sono, salta fuori su Facebook un evento dietro l'altro, non riesco neanche a starvi dietro. È difficile starci dietro. Per esempio il 5 aprile Canicule Tropical, Atlantico Festival. 5 aprile è in là, beh, insomma, è la settimana prossima. No, è vero, il 1 aprile è il 1 aprile. Che cosa succederà, Roberto, il 1 aprile in onda, da, perché tu sei io. Aprile c'è un grande progetto col comune. Sì. Il comune, adesso la sinistra bisogna fare qualcosa. Dobbiamo stupire, dobbiamo assolutamente fare qualcosa, e a livello culturale si sta muovendo qualcosa, ci sono i fondi, ci sono alimenti, e si sta praticamente, il primo d'aprile si pensava di, per esempio, invertire tutta la rotazione del senso delle automobili, tipo in Inghilterra, insomma. Questo potrebbe creare sicuramente divertimento, sicuramente anche un modo per conoscere meglio gli amici anglosassoni, no? Quindi un fattore culturale. E è una cosa molto carina, però potrebbe portare a qualche danno, qualche incidente. Però in questo caso speriamo non grave, insomma, no? Perché è qualcuno che magari viene messo sul vestito. Però in questo caso è scherzo d'aprile. E quindi si pensava appunto di fare questa cosa che stiamo tenendo un po' di segreto, ecco. Poi tutti i musei chiusi. Primo aprile mi sembra giusto, a parte che è un lunedì quest'anno, per cui tutto chiuso. Tutto chiuso. Bisognerebbe approfittare di questo grande momento della gastronomia, Bologna invasa. Secondo me invece il primo aprile bisogna andare in giro per gattili. Sì, gattili, canili, anche. E fare dell'arte con del cibo, alla fine dei conti, cioè... di unire la musica e... non vedo altra tornare, insomma, alla campagna. Sono d'accordissimo, anzi ci sono molte idee, ecco, scusatemi, io sono su Marte, se voi siete qualche fatto di in un noto ristorante del centro di Bologna, per cui sì, piuttosto che la sala di incisioni, piuttosto che la zona di pittura, è la cucina. Dobbiamo guadagnare, dobbiamo vivere. Molte idee. Ho una domanda impertinente, ma la gattina viene in pizzeria con noi dopo oppure no? La gatta è in giro con una sua amica. Con Romeo. Ermeio del Colosseo. No, prima ha detto che sono tra l'altro di fronte a casa tua a fare un aperitivo. Ah, fantastico. Senza sapere che era casa tua. Io adesso non dirò dove abiti tu, perché sennò le miriadi di ascoltatori. No, soprattutto le ascoltatrici. Ascoltatrici sotto casa. Ascoltatori col forcone, ascoltatrici con. Esatto. Con il matterello. Poi tra l'altro adesso c'è stata la depenalizzazione della cioè la legittima difesa, queste cose esatto, qua, per cui tu rischi grosso. Esatto, qui praticamente siamo a casa del W, giusto? Sì, esatto, sì. Potrebbe spararsi in qualunque momento. Esatto, state attenti a quello che dicete. Io stavo tentando di violentare Lolli, però lui non se ne è accorto, ma è con calma. Ok. Però è eccesso di legittima difesa. Però tu non possiedi una pistola, quindi siamo tranquilli, dai. No, però insomma posso sbattervi addosso il vetro della radio. Beh, è sufficiente. Bene, a questo punto che cosa vogliamo facciamo fare? Futura. Facciamo un po'. Tu che sai fare radio, che cosa ci fai fare? Ritmo, idee. Facciamo Futura di Dalla. Facciamo Futura. Chi è che sa cantare dal vivo dai. Futura di Dalla? Senza. Guardiamo. Eccola qua. Sei come accordato. Ecco, adesso accordiamo. Accordate un attimo. Io intanto chiedo al mio collega. Aspetta, che guardo se per caso Fedra mi ha mandato dei gran messaggi. La voce dell'ospitante, che non è né Lolli né Farnedi, è molto sexy. Come si chiama? No, mi chiedono, ma è gnocco? È bello. Questa è una fan anonima, dice. Mi chiamavano Angelo. Angelo? Sì, era un angelo. Secondo me. Mi chiamavano Carnazza. They called me Carnazza. Quello dopo. In Latvia? Vimani Sauts Partagas. Carnazza. Chissà, domani. Su che cosa? Metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare, alzare la testa, non essere così seria, rimani i russi, gli americani. Aspetta un attimo, non devi guardare queste corde qui, perché sono trasposti per questo strumento, per cui il brano diventa il re. Me ne sono accorto subito. No lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerai, non avrà paura, nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, e come sei bella, e se una femmina si chiamerà Futura. Il suo nome detto questa notte mette già paura, sarà diversa, bella come una stella, sarai tu in miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi e non voltarti indietro, tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Vai Lolli! Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva alla. Sì, la luna non è bella come da questa luna, è una sottana americana, allora su, mettendoci di fianco, più su, guida tu che sono stanco, più su, in mezzo ai razzi al batticuore, più su, sono sicuro che c'è il sole, ma che sole, è un cappello di ghiaccio. abbraccio questo sole, è una catena di ferro senza amore. Amore. Lento, lento, adesso batte più lento. Ciao, come stai? Il tuo cuore lo sento, i tuoi occhi così belli non li ho visti mai. Ma adesso non voltarti, voglio ancora baciarti, non girare la testa. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura, domani. Eles me chamavam de Carnazza. Bravi, scusate la cordatura. Mi chiamavano Carnazza. Riccardo Lolli e il suo Casio SA5. SA5 è il mio Casio SA5. Anzi, in realtà è di Nicoletti. E volevo cioè io vi ho messo live su Instagram e ci sono ben 4 persone che ci stanno guardando. E li saluto, tra cui Michael Wynn, che è dall'altra parte del mondo. Mentre invece c'è Franco Grilli, che conosciamo tutti, lo conosci, certo, no? Tu sei Franco Grilli. Chapeau a Franco Grilli. E anche abbiamo anche una artista contemporanea importantissima, si chiama Claudia Lucas. Sì, ma non abbiamo della gente che ci guarda, della gente semplice? Della gente semplice no, è troppo semplice avere gente. No, la cosa che mi dispiace un po' per loro è che loro sentono da schifo, perché l'audio non passa attraverso la radio ma passa attraverso il mio fantastico cellulare. Ah, okay. E fra l'altro io devo spegnere questo live, perché non è che posso fare coxo spaziale con un braccio anchilosato in questo modo. Però è stato bello. Come vai con l'epicondilite? Tu sei a posto? E quella, qual è l'epicondilite? Ah, quella lì? Gomiti. No, io quella dovrei essere abbastanza a posto. È guaribile. No, più che altro, sì, perché faccio molta pratica. Allora sì, funziona tutto bene. No, sai com'è quando dipingi? Cioè, comunque lo tengo in allenamento. Tu come va, Onofri? Io uso delle sostanze antidolorifiche a mia età e mi tengo su con delle pillole che fanno passare dolore, molto pesanti, ma d'altronde la vita è talmente tremenda, ti schiaccia, che soltanto la chimica può darti un barlume di speranza, insomma. Questo mondo ormai è un sfascio. Avete un supporto per i telefoni? Se lo appoggio così, tipo. È bellissimo come Pasquini ascolti, non ascolti nulla di no, di beh, assolutamente, che diciamo. Ma figuriamoci. Cioè, ci no, con tutta questa radio, se ascoltassi ancora gli ospiti, ma sì, saresti ma morto. No, ascoltare gli ospiti è una cosa che non sono mai riuscito a fare, probabilmente non ci riuscirò mai. E fa molto piacere. Sì. Torneremo. Sì, sì, sì, sì. Ecco. No, diciamo che se state chini, Lolli e Farnedi si vedono. No, te mi dispiace o no, ma non ci stai dentro questo, detto, ma tanto loro si adesso per adesso sono in 5, ma fra un po' si annoieranno immediatamente. Non volevo, ringrazio il dottore che ci ha fatto un'esecuzione interessante, siamo tutti rimasti colpiti, però anche sentire la voce di Lolli non sarebbe stato male. Infatti io ho detto vai Lolli, l'ho sentito, non ha colto, lui ha pensato, no, è andato sul Casio SA5, perché già no, ero molto concentrato, perché con un dito prendo 3 tasti di questa tastiera. No, infatti mi sono veramente molto, però va benissimo, piacevolmente stupito. Ho sbagliato, non volevo girarmi. No, dicevo, sono piacevolmente. Vedo Lolli e Farnedi con qualche cappello bianco, mi scrivono. Chi? Grilli sempre. Comunque, bisogna usare la spazzola di ferro, lo so che tu ce lo dici da sempre, dal 2009, però ancora io non ho trovato una spazzola di ferro idonea per la mia, per il mio vello. Damas y caballeros, el party begins. Pubblicità. Beginner, lo beginner. Comprate la spazzola di ferro Franco Grillo. Questo è Coxo Spaziale. Stasera non abbiamo niente da raccontarci, a parte appunto raccontare che è uscito questo. Mi ricordavo che venivano queste trasmissioni piene di rubriche, di interventi, di. No, di siccome non cronache, c'è. È Fedra che si prepara, esatto, queste cose. Se ci fosse stata Fedra avremmo avuto 4 telefonate, 5 rubriche, 18 menzioni. Invece, essendoci solo io, no. No. Anzi, Fedra, chissà se mi ha scritto qualcosa, oddio. No, non mi ha scritto. Comunque, sì, questo è il disco dei Lost Beginners. Compratene a bizzeffe perché si consumano velocemente. Nel senso che una volta che lo avrete in casa lo ascolterete continuamente. Finora tutti quelli che l'hanno avuto stanno facendo così. E le copie digitali non sono altrettanto belle. È veramente notevole, ma questo dopo me lo autografi, io te lo pago naturalmente. No, volevo dire buon appetito al nostro Daniele perché sta andando a cucinarsi qualcosa. E poi ci sono un sacco di mie studentesse che ci stanno guardando. Devo dire che forse fare un live di Instagram è quasi meglio che fare la radio stessa, no? Ormai mi penso che sì, i nuovi mezzi di comunicazione, se poi potresti fare una diretta Instagram regolarmente. Bisogna trovare il modo magari di uscire con l'audio e di entrare nel telefono con l'audio del mixer, ecco, magari sarebbe una cosa interessante. Potrebbe essere un'app da progettare. No, penso sarà, sia già. No, beh, esiste, no, infatti esiste questo. Tu lo sai che esiste questa app per fare programmi radio? Ovviamente so che esiste l'app, però avevo anche dato un 30% di contributi, ero entrato in società, poi mi sono tolto. Ah, sì. Ma infatti tu sei molto bravo a scendere dal treno quando sta per partire. Sì, sì, diciamo che normalmente o faccio dei danni ai miei soci creando dei problemi, veramente colpendoli anche nella famiglia, le cose più preziose, e accaparandomi quindi i loro utili, le loro posizioni, oppure esco quando mi danno delle informazioni e so, per esempio io a Lolli siamo insieme, mi dicono guarda molla, non dico niente a Lolli, mollo io facendogli credere che prendendo la mia parte lui si avvantaggi, e poi va in fallimento. Si è riusciti a perdere tutti gli ascoltatori con la, cioè, appena ti ho dato la parola sono andati via tutti. Insomma, io faccio del mio meglio, quindi no, non è vero, sono ancora in due, ma perché stanno aspettando una nuova cosa. No, ci sono cose da abbiamo 5 minuti, cosa facciamo, una canzone dal vivo oppure andiamo a mangiare, oppure non so, prendiamo una telefonata finta anonima, la telefonata anonima. Fahrenheit sarebbe interessante. Fahrenheit. Se no canta tu un pezzo. No. È timido, bisogna insistere con Lolli. Dai, fammi. È una voce splendida. Da o sole mio con quella tastiera lì e quattro voci contemporaneamente. Puoi cambiare i suoni, quella è. Hai anche la tastiera. So. Io intanto preparo il finale di Coxo Spaziale. When I first saw you, all my soul surrender, my heart was captured, my soul surrender. I spent a lifetime waiting for the right time, and when you're near, the time is here at last. It's now or never. Hold me tight, kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flash above the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. Oh, come out in the bath. We will never understand.